come un albero, mi colloco nel mezzo tra la terra e il cielo, proprio a metà via. Opero una sintesi tra luce, clorofilla, equilibrio di sostanze e di energia. Di sostanze e di energia. Di sostanze e di energia. Di sostanze e di energia. Pier Foschi alla batteria. Band. Ma sono arrivato a questo punto che mi sono ricordato che mi sono dimenticato di uno. Mi sono ricordato di averne dimenticato uno. Ho dimenticato di presentare il musicista più importante di questa band. Quello senza il quale non starebbe in piedi niente di questa ambaradan. La ritmica sarebbe un po' zoppa, insomma non sarebbe, l'energia non ci sarebbe. Manca un musicista, il più importante. Ora vorrei sentire il suo assolo, l'assolo improvvisato di stasera, quello che viene fuori, proprio lui è un grande, ve ne accorgerete che roba. Sto parlando di...